Compagno, per favore prendete posto che iniziamo. Prima dei saluti, mi dicono che è obbligatorio fare i saluti. Prima dei saluti vorrei dirvi una cosa di servizio. Più tardi, alla fine del dibattito, chi vuole facciamo un piatto di pasta e stiamo un poco insieme. Vabbè, detto questo, io ringrazio i compagni di Sensibili alle Foglie, Beppe e gli altri compagni che sono venuti a presentare questo libro. Ringrazio fortemente i compagni di Sensibili alle Foglie perché durante questa estate, con i morti nelle carceri e con l'aumento dell'uso del 41 bis, noi, anche se stavamo un po' in giro, non stavamo qui, ci siamo detti fra di noi che era il momento di rilanciare ancora una volta un processo di discussione intorno al carcere e intorno alla pena complessivamente, perché la pena, molto spesso quando parliamo di carcere ci dimentichiamo che la pena è una cosa più complessa. Ci sono vari carceri di varia natura che arrivano anche nel territorio e quindi per noi era importante. Poi mentre facevamo questa riflessione come ripartire, Nicola ci ha chiamato e ci ha proposto questa iniziativa e quindi Nicola ci ha letto nel pensiero e lo ringraziamo e iniziamo con questa presentazione che per noi è un primo momento perché pensiamo anche alla luce degli ultimi decreti repressivi. Pensiamo che il carcere non solo il carcere, tutti gli altri strumenti diventano centrali nella pena, diventano centrali nella pratica del potere. Perché io quest'estate leggevo in maniera, mi sono un poco spaventato, leggevo l'intervento di un medico inglese di origine palestinese che parlando di Gaza, parlando di altri posti dove ci sono conflitti, diceva che in realtà Gaza c'è un esperimento in atto, non solo sulle armi, per il mercato delle armi, ma un esperimento in atto per decidere cosa fare di una parte dell'umanità che sarà superflua, che non servirà alla luce dello sviluppo della cosiddetta intelligenza artificiale. E quindi questa cosa mi ha molto colpito, ho detto ma questa cosa nei posti dove non c'è il conflitto armato, ma c'è il conflitto sociale, di tutti i giorni, che piega piglierà? E la piega il decreto, che in realtà è il decreto che ci ha molto preoccupato tutti, in realtà questo decreto è soltanto l'arrivo di un processo che va avanti da molti anni, un processo di controllo e di repressione che va avanti con i governi del centro-sinistra, va avanti da molti anni, e il momento del Covid è stato uno dei momenti centrali dove si è sperimentato tutte le forme di controllo e di annientamento. E quindi, quando noi diciamo che per noi il carcere, lo strumento del carcere diventerà sempre più centrale per il potere, significa che questa cosa deve diventare centrale per noi, deve entrare nelle nostre pratiche. E quindi ci dicevamo, perché noi siamo un posto dove ogni tanto parliamo del carcere, non può essere una cosa che succede ogni tanto. Deve fare parte fino in fondo della nostra pratica quotidiana. Discorso sul carcere e sulla pena, che non è tanto il problema, io personalmente sono per l'abolizione del carcere, ma non è tanto questo il problema in questa fase, ma il problema è come il potere si misura rispetto a milioni in Italia, milioni di persone che con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non serviranno più nemmeno per la produzione. E nel momento in cui questa società in Italia hanno rifiutato anche il reddito, quindi se non c'è un reddito per chi non serve nemmeno la produzione, che fine deve fare? E questo è un interrogativo che io mi pongo a voi, vi faccio angosciare un po' a voi, buon a voi come mi sono angosciato io. Buonasera, buon ascolto. Scusate, un momento, c'è stata una difficoltà. Ciao Luigi! Pronto? Ciao Luigi, sono Raffaele di Santa Fede. Ti mando i saluti a tutti i compagni che sono venuti a questa a questa presentazione del libro di Beppe Battaglia, dove c'è anche Nicola Valentina, che tu conosci bene. Nicola ti saluta. E quindi saremo onorati sul tuo intervento stasera. Sì. E quindi se vuoi dirci delle cose, noi siamo contenti anche come momento di socialità, di solidarietà con te, ci teniamo molto al tuo intervento. Grazie. Vuoi che intervenga? Sì, grazie Luigi. Adesso? Sì, prima che iniziamo, così apriamo con il tuo intervento. Ah, vuoi che intervengo adesso? Inizio sì, adesso? Sì, se inizia adesso sì, ci siamo contenti. Ma io non so neanche per cosa è questa riunione qui, di cosa parlate. Non... Noi stiamo parlando di carcere, presentiamo un libro di Beppe Battaglia su carcere, che si chiama La libertà è un organismo vivente. Sì. Questo, però tu vuoi anche intervenire partendo dalla tua situazione, quello che vuoi, non è che devi intervenire sul libro, perché nemmeno okay. Noi l'abbiamo letto, lo leggeremo dopo. Okay. Ma io non sono uno stinco di santo, nel senso che... Sì, nessuno di noi è uno stinco di santo, vai Luigi. Com'è? Nessuno di noi è uno stinco di santo. Nessuno di noi è uno stinco di santo, quindi vai avanti. Si sente malissimo. Lo so, mi dispiace. Pronto. Io adesso ti sento a te però. Pronto. Si sente malissimo. A te ti sento io. Io sento malissimo. Se vuoi intervenire dopo. Ma no, posso intervenire anche adesso se volete. Vai, non sì. So bene di cosa parlare, perché non sono stato istruito sul scopo. Ma devi parlare di te, delle cose che vuoi tu. Ti ripeto, il libro di Beppe che sarà sicuramente bellissimo, io non l'ho letto, quindi lo leggerò dopo. Come, pronto? Quindi se vuoi intervieni. Ok, intervengo allora, inizio sì, a parlare. Vai, presentati. Ah, io non... Inizio a parlare? Sì, vai. Ok, ma sì, mi sentite? Sì, sentiamo benissimo, vai, non ti preoccupare. Se non ti sentiamo, te lo diciamo. Okay, io non sono uno stinco di santo. Nel 91 ho coltellato il mio patrigno, il fidanzato di mia mamma. E nell'11 scrivo www.brtinomarte sul muro. La Digos mi bussa alla porta di casa, perché l'ho scritto davanti alla porta. Sento dire, magari era un'allucinazione, Gallini apre la porta che la scondiamo la ammazziamo di botte, io chiaramente la porta non la apro, mi barrico in casa armato di cacciavite e coltello per tenere lontano i poliziotti, quali poi mi disarmano tirandomi sulla testa un boiler. E quindi mi accusano poi di tentato omicidio dicendo che avevo cercato di accoltellarli, cosa falsa che poi in sede processuale viene ridimensionata a resistenza aggravata pubblico ufficiale. E quindi e poi nel 2021, sempre a causa di una sospensione dei farmaci, entro in un bar convinto che gli alieni avessero rapito questa bambina e cerco di prelevarla dalla carrozzina e portarla fuori in un bar portarla fuori in panetteria a prendere il pane per il rito cruento degli alieni che avrebbero sacrificare. In realtà gli alieni erano i genitori, i quali quasi mi linciano a vedermi cercare di prendere la carrozzina e portarla fuori, mi spezzano polso sinistro a calci e pugni, vengo arrestato, portato al sestante che è il reparto di osservazione psichiatrica delle Vallette, tenuto segregato sotto osservazione per un mese dalle telecamere isolate in questa cella, poi portato nel reparto C, dove se non altro potevamo uscire e avere un po' di socialità fra dei reclusi. Comunque adesso mi hanno dichiarato incapace di intendere di volere al momento dell'ultimo atto, socialmente pericoloso, e quindi mi hanno condannato all'ergastolo bianco praticamente, perché io verrò rilasciato solo quando mi sarà tolta la pericolosità sociale praticamente. E sono in una situazione difficile, nel senso che sono innanzitutto contento che non ci siano più gli OPG, perché se questa condizione io normalmente sarei recluso nell'orrore degli OPG, cosa che per fortuna non è. Però questa condanna mi coglie in un momento difficile della mia vita, perché io non sono sposato, non ho figli, insegnavo al momento del mio crollo psicologico del 21, insegnavo in un liceo, mi licenziano dal liceo, mi interdicono praticamente dai pubblici uffici e adesso mi danno una pensione di inabilità al lavoro di 460 euro al mese, e quindi io mi chiedo come potrò vivere una volta che sono rilasciato da questa struttura, perché con 500 euro al mese è molto difficile vivere. E quindi sono molto preoccupato, ho una casa che mi ha comprato mia mamma, che mio fratello, mia mamma si è ammala di demenza senile, viene recuperata in una RSA, e quindi sono praticamente anche solo al mondo, perché il suo fidanzato muore, il fidanzato quello che ho coltellato muore, mia mamma viene chiusa in una RSA e io rimango recluso in questa struttura psichiatrica chiusa a media intensità, che è una specie di mini manicomio, e non posso lavorare, non posso uscire, posso vedere gli amici, perché posso vedere solo persone una volta alla settimana, ho ripreso a dormire e ad assumere i neuroplegici, e quindi diciamo sono un po' ritornato in me stesso. Però mi rimane la pericolosità sociale come condanna, quindi non so se e quando potrò uscire da questa situazione di coercizione. Quindi ne ho combinate tante, lo ammetto, però adesso mi trovo nel circuito psichiatrico più nero, perché sono in una situazione da manicomio, nel senso mi hanno tenuto alle vallette 6 mesi, poi mi hanno visto che stavo recuperando in fretta la ragione e mi hanno mandato in una comunità forense ad alta protezione, a Frate Bene Fratelle. Lì sono rimasto 2 anni e poi mi hanno trasferito in questa comunità un po' più bassa protezione, dove starò altri 2 anni. Hanno intenzione, a quanto ho capito, di farmi fare il giro di tutte le comunità possibili e immaginabili, fino alle comunità alloggio, perché questa è la pratica, è la prassi, cioè praticamente non esco più dal circuito forense alloggio. Questo muore. Ho scritto un libro per raccontare, che non è una bella cosa, perché uno pensa, leggendo i giornali, pensa che con l'abolizione degli ospedali psichiatrici giudiziari ci siano tutti una serie di operatori che amorevolmente si prendono carico del povero folle per reinserirlo nella società. No, non è così. In realtà se lo reinseriscono in queste comunità chiuse dal quale non può uscire, come è successo a me. In effetti le mie limitazioni qui di libertà sono molto, molto forti, molto pesanti. Non posso andare nei bar, non posso uscire solo se accompagnato dagli operatori psichiatrici, quindi non posso vedere i pochi amici che mi rimangono, posso vedere gli amici solo una volta alla settimana, quindi posso vedere, devo farli tornare gli amici per vederli, quindi perdo anche di socialità, non ho più socialità sul territorio, perdo rapporti col territorio, perdo la mia rete di socialità. Ecco, quindi vivo anche in una condizione di profonda solitudine, perché qui sono tutti pazienti, non mi metto anch'io nel mazzo, medio gravi, e quindi che non, alcuni non parlano mai, alcuni vanno in dialogo fra noi reclusi. Difficile, non so di pronto. Vai, vai, Luigi, vai. Pronto? Questo è il polo carcerario delle... Ok, pronto? Sì, sì, ci siamo, Luigi, ti stiamo ascoltando, vai. Io ho una scolarità di 23 anni, una laurea, un diploma per perito agrario, una laurea in scienze della terra, un dottorato in chimica del suolo, 20 anni di insegnamento nelle scuole secondarie. Tutto questo è perduto per sempre, non posso sfruttarlo in nessun modo. Ho capito che il polo carcerario a Palazzo Nuovo, che si occupa di far studiare i detenuti, sono informato e sto sostenendo gli esami grazie a questo polo carcerario di Palazzo Nuovo di scienze politiche. Ho scritto un libro, la mia storia di detenzione all'ergastolo bianco, si intitola Socialmente pericoloso, la triste ma vera storia dell'ergastolo bianco, e sto cercando di scriverne un secondo, non so se ci riuscirò. Il problema che riguarda la pericolosità sociale, chi commette un reato viene dichiarato incapace di intendere di volere al momento dell'atto, è socialmente pericoloso, va incontro a un trattamento lunghissimo e viene recluso all'interno di queste strutture psichiatriche di media e alta intensità sul territorio, dalle quali poi non esce più praticamente, non si riesce più a uscire, quindi si è internati all'interno di un sistema manicomiale moderno, solo a parole diverso da quello manicomiale che è stato chiuso da Basaglia, perché Basaglia chiude i manicomi, l'intenzione di Basaglia era chiudere i manicomi, farla finita con la logica manicomiale, ma l'attuazione della riforma Basaglia non riesce in questo intento. Semplicemente i manicomi vengono spezzettati sul territorio in tante manicomi, che prima era un unico grosso edificio che accentrava tutto il trattamento psichiatrico del folle, viene spezzettato in tante piccole realtà distribuite sul territorio. Abbiamo il reparto psichiatrico di diagnosi e cura degli ospedali, dove viene aggiustata la terapia, dove viene legati al letto, dove si è ricoverati quando non si vogliono prendere i farmaci. Ci sono poi le comunità ad alta protezione chiuse o media protezione, come quella in cui sono anche recluso adesso, dove si può uscire ma poco e solo se accompagnati. Ci sono poi le comunità alloggio, dove l'intensità è ancora minore, si vive in queste strutture dello Stato in cui vengono gli operatori a controllare che tutto funzioni bene secondo le regole previste. E poi c'è la manicomialità territoriale, in cui uno in cura psichiatrica ambulatoriale una volta al mese va dallo psichiatra, si fa fare l'iniezione e sta con questo lungo guinzaglio chimico attaccato ai servizi psichiatrici per tutta la vita. Quindi è cambiata la dislocazione nello spazio dell'edificio psichiatrico, ma non è cambiata la logica complessiva o i dispositivi che complessivamente agiscono su chi finisce nelle maglie psichiatriche. Io ero la cura territoriale sempre del folle, del malato di mente, se vogliamo chiamarlo così, è sempre meno finanziata, non ci sono più soldi per finanziare la cura territoriale, cioè la cura basagliana, se vogliamo così, dei tempi d'oro. E la psichiatria è sempre più organicista, cioè tende sempre più a disconoscere l'importanza biologica e psicologica nel malessere, nella sofferenza psichica, nel disagio, nella follia, ed è sempre più organicista, nel senso che riconosce soltanto più l'origine genetica della follia, che è una delle competenze, delle componenti, ma neanche la principale forse. E quindi sono veramente in un brutto momento, per essere recluso in questo circuito. Ho cercato di raccontare la mia storia, volevo da vivere come paziente psichiatrico, mi rimarranno tra i 0 e i 10 anni, che chi è paziente psichiatrico vive in media 10 o 20 anni in meno della popolazione generale. Ho già 60 anni, quindi mi rimane da vivere tra i 0 e i 10 anni in media, e volevo dedicare gli ultimi anni della mia vita proprio i diritti degli invalidi psichici, quale posso essere io. È per questa ragione che sto frequentando scienze politiche. Ho scritto questo libro, sono disponibile a presentarlo, quindi se volete organizzare una sua presentazione, è una specie di vissuto, racconta il vissuto di essere, di attraversare questi territori della reclusione psichiatrica che ha seguito la chiusura degli OPG. Ecco, non so se ho risposto alle vostre domande implicite che volevate fare. Luigi, ti ringraziamo tantissimo per questa testimonianza, che pensiamo che non sia solo tuo, ma di alcune migliaia e migliaia di persone. È una parte nascosta della pratica carceraria che molti di noi non conoscevamo. Ti ringraziamo e ci sentiamo a più presto per la presentazione del libro, poi vediamo insieme come farlo, ci teniamo molto. Non so se tu vuoi seguire o hai problemi di orario, come vuoi tu. Se vuoi continuare a sentire i vari interventi, rimani in ascolto, vedi tu, va bene? Ti abbraccio a nome di tutti. Grazie. Grazie. Nicola deve intervenire. Nicola, tu devi intervenire? Mi pare che sei l'editore, c'hai un ruolo in questa storia, no? Intervengo io? Come vogliamo? Come ti... Vai. Allora, faccio un intervento da editore, nel senso che vi voglio spronare, vi voglio in qualche modo sollecitare a guardare l'insieme della produzione editoriale che Beppe Battaglia ha fatto con Sensibili alle Foglie. Non è accaduto intenzionalmente, ma è accaduto nei fatti che noi di Sensibili alle Foglie con Beppe abbiamo prodotto tre libri che affrontano che raccontano la libertà come esperienza umana, sociale, in relazione all'istituzione che la recide radicalmente, che è il carcere. Beppe con noi ha pubblicato tre libri. Il primo libro si intitola Le tre libertà, ed è un libro che racconta tre possibilità e tre forme della libertà. La prima è la libertà autodeterminata, si può raggiungere all'interno di un processo collettivo. Beppe, a concretizzazione di questo tipo di libertà, racconta nel libro l'esperienza di evasione dal carcere di Favignana del 1975. Un gruppo di reclusi scava un tunnel nelle fondamenta del carcere per trovare la libertà attraverso una fuga in mare aperto, una libertà che viene costruita dalla collaborazione e dalla sinergia e dall'intreccio di un gruppo di reclusi detenuti in quel carcere. Questa esperienza della libertà conquistata, come la chiama Beppe, fa da contraltare ad un altro tipo di libertà, che è la libertà concessa. Sempre nello stesso libro Beppe ci racconta la sua esperienza della prima uscita dal carcere dopo 16 anni attraverso un permesso premio. L'esperienza che Beppe ci racconta ci fa capire come una persona reclusa per lunghi anni in carcere, attraverso il processo di disabilitazione che ha subito, quando ottiene questa possibilità, fa un'esperienza di disorientamento radicale e di difficoltà a rientrare in quello che ci caratterizza come esseri umani, cioè l'essere in relazione con gli altri. E quindi Beppe ci racconta la difficoltà a ritrovare la dimensione sociale che ci caratterizza come umani. Terza libertà che viene raccontata in questo libro è la libertà comprata. Lo stesso processo di evasione attraverso lo scavo di un tunnel nel carcere di Favignana ad un certo punto viene venduto. Nel senso che un recluso che era stato mandato nel carcere viene a sapere di questo tunnel e in cambio della propria salvezza e della propria libertà vende la libertà e la salvezza degli altri detenuti che stavano scavando il tunnel e che erano quasi arrivati a poter evadere. Quindi la libertà comprata. Per salvarmi faccio uno scambio con l'istituzione, salvo me stesso vendendo gli altri. Questo è il primo libro che racconta questi tre volti della libertà. Il secondo libro è un libro in cui Beppe racconta un'esperienza che lui fa non da recluso ma da volontario in carcere. Beppe tra anni di reclusione in carcere e anni di volontariato andando in carcere dall'esterno ha fatto quasi 50 più di 50 anni di reclusione in una veste o nell'altra. Il secondo libro si intitola La libertà alle ali e racconta la realizzazione di un sogno anche simbolico. Nel carcere di Lauro, un carcere a custodia attenuata, Beppe, un gruppo di reclusi di questo carcere e alcuni maestri artigiani costruiscono una cosa unica nella storia delle istituzioni carcerarie, costruiscono un aereo biposto predisposto per il volo costruendo questo aereo, un progetto totalmente inventato da loro e reso possibile attraverso l'abilità dei maestri artigiani, questi reclusi attraverso questo processo di costruzione di questo aereo riescono ad ottenere riescono a ridurre la loro condizione di prigionia e ad ottenere la possibilità di uscire dal carcere. L'attività di Beppe come volontario all'interno delle carceri segue un principio semplice ma essenziale. Lavorare in carcere dall'esterno significa costruire dei progetti autogestiti e non sovradeterminati dall'istituzione per poter fare anche un solo giorno di carcere in meno. Secondo libro di Beppe. Terzo libro di Beppe, è quello che presentiamo oggi, che è La libertà è un organismo vivente. Non ve ne parlerò in modo dilungato, ma vi dirò brevemente di cosa si parla e in qualche modo il senso anche di questo titolo particolare. Il libro racconta l'esperienza di un gruppo di detenuti politici che attraverso un progetto autodeterminato, infilandosi nelle maglie delle possibilità date dalla riforma penitenziaria, si reinventano. Finita l'esperienza della lotta armata, con ancora molti anni di carcere davanti, si aggregano, costruiscono un patto patto tra loro per uscire, per riuscire ad uscire dal carcere, autodeterminando il loro percorso di uscita, finiscono, scelgono per questo presentano questo progetto all'istituzione, scelgono per realizzarlo una zona da poco terremotata, che stava uscendo dal terremoto, che è l'Irpinia, e costruendo un intreccio forte con volontari, operatori, situazioni culturali, politiche, critiche rispetto al carcere della zona dell'Irpinia, riescono ad ottenere un casale nella piccola cittadina di Tufo, dove si reinventano per riprendere ad essere vivi all'interno di una vita sociale. La cosa interessante di questo percorso, che rimanda al titolo, è che Beppe ci tiene a sottolineare che non si tratta tanto di un intreccio solidale, non è semplicemente solidarietà quella che si crea fra questa comunità, fra questo gruppo di reclusi e la situazione esterna al carcere le realtà esterne al carcere di Tufo. Beppe dedica il libro a due figure, Toti Rosciat e Sandor Luongo, che hanno sono stati decisivi per far andare avanti questo progetto e sono stati decisivi affinché questo gruppo di reclusi riuscisse effettivamente ad uscire dal carcere di Avellino e ciascuno poi ha percorso le sue strade nella vita. Non si tratta semplicemente di solidarietà, ma dice Beppe, è più che solidarietà, si crea un legame di interdipendenza reciproca, e in qualche modo questo intreccio fra interno e esterno funzionava un po' come un organismo vivente, come un organismo nel quale la vita non si trova solo in un punto, ma in tutte le sue parti, e tutte queste parti concorrono a far vivere questo organismo. Quindi è una simbiosi, un processo che ci fa capire una cosa importante, ci apre ad un discorso importante che spero che abbiamo la che si collega con quello che diceva Raffaele e che spero abbiamo la possibilità oggi o in futuro di approfondire. Il carcere, il discorso di liberazione dal carcere che Beppe racconta è in relazione ad una istituzione. Il carcere è una istituzione che recide la vita, non solo recide la libertà, ma recide la vita. Non solo la vita sociale delle persone, ma anche il legame di ciascuna persona che finisce in carcere con il vivente. Quindi va introdotto questo elemento importante. Beppe lo fa in un modo esplicito, ricordando la sua esperienza nel carcere di Massime, nel carcere speciale della Sinara. Il carcere speciale della Sinara era stato immaginato con dei passeggi singoli, che immaginati per recidere attraverso l'isolamento la vita, l'equilibrio psichico, fisico delle persone che vi venivano recluse. Per costruire questi passeggi che dovevano recidere la vita delle persone che vi venivano internate, erano stati recisi degli alberi. Ogni passeggio era costato, come dire, la distruzione di una parte della vegetazione dell'isola di La Sinara, tant'è che Beppe nel suo passeggio aveva quello che era il resto di un albero che era stato tranciato. Il carcere recide la vita sociale delle persone, ma recide la vita nel suo complesso. Questo è uno, e questo processo di libertà dal carcere, immaginato come un organismo in interazione, in simbiosi di persone che la costruiscono, è un discorso che ci consente, a mio parere, di ragionare anche di vedere in modo più radicale quello che è il carcere oggi, perché il carcere oggi, secondo me, va a cominciare, il carcere proprio di questo momento storico che stiamo vivendo, è un'istituzione che va analizzata utilizzando un analizzatore. Un analizzatore in particolare ci consente di vedere il carcere di oggi. Questo analizzatore è la morte. Oggi il carcere va analizzato, va visto utilizzando, per capirlo, va visto utilizzando questo analizzatore. Chiudo, voglio dire, non è un analizzatore che mi sto inventando io, ma in carcere oggi la detenzione è prevalente una detenzione sociale. In carcere si contano fino ad oggi, quest'anno, 73 suicidi, 106 persone sono morte in carcere per altre cause, e arriviamo a 108. I tentativi di suicidio sono stati 1500, e l'altra cifra è che in carcere, una delle cifre date da uno dei garanti dei detenuti del comune di Palermo, in carcere in quest'anno sono morte per assenza di cure, quindi per malattia, oltre 1400 persone. Il carcere è partendo da queste cifre, facendole diventare vita, corpo delle persone che al carcere non sono sopravvissute, utilizzare questo analizzatore penso sia una degli strumenti che ci consente di guardare il carcere di oggi e che ci può dare gli strumenti per capire come fronteggiarlo e come far vivere l'idea che è importante liberarsi dal carcere, ma anche liberarci del carcere. Allora, dico due cose, sì, mi metto in piedi perché così, diciamo. Allora, io è difficile intervenire per varie ragioni. In primo luogo perché per fortuna Nicola, diciamo, non è solo un editore come tutti gli altri. L'altro elemento è perché si tratta di giorni veramente difficili, in particolare, diciamo, la morte di Giacomo Gobbato a 26 anni, diciamo, fa crollare qualunque, diciamo, in genere prospettiva si voglia avere in questo momento storico e politico. Però vorrei dire alcune cose non sul carcere ma sulla libertà, perché io mi chiamo Dario Stefano, diciamo, e conosco Beppe Battaglia da un po' di tempo, non tanti anni da quanto si parla del libro, però, diciamo, conosco Beppe da molto tempo. E devo dire che leggere il libro di Beppe in questo momento storico e politico, la morte di Giacomo, il decreto sicurezza, quello che sta accadendo a Gaza, diciamo, l'orrore del carcere che raccontava Nicola, in qualche modo ci chiude in una cupa prigione di pensieri. Invece io, se devo dire che cosa in questo momento, a cosa mi ha aiutato il libro di Beppe, è mettere insieme due parole. La prima è una frase che Beppe scrive nel primo libro, dice: libertà è parola di scavo, e non solo perché stava scavando per un'evasione, libertà è parola di scavo. E l'altra, lui dice, racconta in questa, usa questa espressione, diciamo, quando racconta di come escono dal carcere e di come escono tutti assieme. E questo è un passaggio importante che Beppe richiama nel libro. Tenete presente che quello che avviene in quel momento è una cosa che avviene sì perché l'ordinamento penitenziario lo consente, ma l'ordinamento penitenziario consente a ciascun detenuto di dialogare singolarmente con l'istituzione penitenziaria. Beppe, quella comunità politica, né dissociati né pentiti né riducibili, in un clima storico in cui tutto questo poteva sembrare impensabile, organizzano questa esperienza al di fuori del carcere, che è fatta di tante cose, è fatta di maneggiare i cavalli, di tagliare i tronchi, di fare il meccanico. Ma tra tutte le vite che Beppe ha una capacità particolare. Beppe è un tessitore. Nicola ha detto tutte cose giuste, forse una gli sottolineerei però in modo diverso. Beppe è un operatore sociale e nella sua capacità di costruire sociale Beppe ha messo tutta la sua visione politica. Lui scrive questa cosa molto bella nel libro, dice: stavamo tornando ad abitare la nostra umanità, questa comunità di persone che esce ognuno con una prospettiva di decine di anni di carcere, in un momento di solitudine politica esce e si rapporta con un'altra comunità di sconosciuti. E in questo incontro, che appunto è l'organismo vivente, queste figure che Peppe racconta e che nel libro si snodano molto rapidamente, è incredibile come tutti questi anni Peppe li racconta con enorme semplicità. Sembra quasi tutto che si intrecci, eppure dietro ogni nodo c'è una fatica enorme. Ci sono anche, ho scoperto al libro, che nel sollevare i tronchi Beppe si rompe anche due avambracci. Questa è una cosa che mi era sfuggita. Ecco, quando Beppe scrive, dice abitare la nostra umanità, usa, non so quanto consapevolmente, un'espressione che citava un vecchio filosofo tedesco, in quale diceva: non si è nel mondo, il mondo si abita nella dimensione in cui noi vogliamo costruire un mondo, e si costruisce un mondo prendendosene cura. Io penso che l'insegnamento di Beppe, diciamo, insegnamento pratico, la vita di Beppe Battaglia, di quella comunità, ci insegna anche adesso, in un quadro politico e storico molto complicato, veramente molto complicato. Il DDL sicurezza peggiorerà tremendamente se passa al Senato quella che è la situazione penitenziaria, in generale quale che sarà, diciamo, il clima delle prossime lotte politiche, sociali e civili in questo paese. E però pensare che una comunità di uomini in un carcere sperduto, ignoto agli uomini e forse noto solo nella provincia di Avellino, riesce a costruire al di fuori e prima di quello che poi sarebbe stato l'intervento sociale codificato, altre esperienze che si sono date, questa possibilità, e la costruisce insieme, mi ha fatto venire in mente, con questo chiudo, un'altra, diciamo, cosa a cui sono molto legato, che è questo episodio qui. Forse non Dostoevskij, lo scrittore, sì, lui, fu condannato a morte perché sovversivo. Il 22 marzo del 849, Dostoevskij viene preso dal carcere insieme agli altri prigionieri e viene condotto in piazza. Dostoevskij viene condotto in piazza con gli altri prigionieri e gli viene letta la sentenza di condanna a morte. Saranno impiccati in piazza seduta stante. Saranno fucilati in piazza seduta stante, quindi si plotone di esecuzione, rullo di tamburi, eccetera. Arriva in quel momento la notizia dello zar che commuta la pena, e quindi Dostoevskij, invece di essere condannato a morte, deve scontare 5 anni di lavori forzati, 1 anno di militare, e non potrà mai più scrivere. E però Dostoevskij, mentre, diciamo, viene portato nel campo di lavoro dove sconterà la sua pena, scrive questo. Dice: fratello, io non sono triste e non mi sono perso d'animo. La vita è vita ovunque, la vita è in noi stessi e non fuori. Accanto a me ci saranno altre persone. Essere persona tra le persone e rimanerlo tra loro per sempre, in qualsiasi circostanza, non essere triste, non arrendersi. Ecco cos'è la vita, ecco qual è il suo scopo, ne sono consapevole. Questa idea mi è entrata nella carne e nel sangue. Sì, è così. Quella testa che creava, viveva la vita superiore dell'arte, che era consapevole e abituata alle nobili necessità dell'anima, quella testa è stata già tagliata dalle mie spalle, ma mi è rimasto il cuore e la stessa carne e lo stesso sangue che può ancora amare e soffrire e desiderare e ricordare, e questa è comunque vita. Ecco, io, diciamo, in queste mille vite di Beppe Battaglia, in queste mille vite in cui ogni vita precedente è legata alla successiva, Beppe dice una cosa molto bella, dice: io non mi dissocio da nulla, perché quello che sono stato prima è ciò che sono adesso e ciò che sarò domani. In questo reinventarsi, in questo abitare il mondo e prendersene cura insieme ad altri che si conoscono, e soprattutto insieme a tutti quelli che si conosceranno durante questo percorso. Ecco, io credo che la libertà che Peppe ci racconta, diciamo, questa libertà che prevede anche tanti fallimenti, perché l'aereo non vola, dal carcere non si riesce a evadere in un certo modo, in qualche punto però questa libertà prende forma a patto che si continui a soffrire, a desiderare, ad amare e a saperlo fare anche insieme agli altri. Vi ringrazio. Buonasera a tutte e tutti, ringrazio le compagne e i compagni di Santa Fede, a Beppe, a Sara, a Nicola, per condividere con voi queste riflessioni che il libro di Beppe mi ha dato modo di fare. Il libro di Beppe è un libro bellissimo, di una tenerezza enorme in alcuni momenti, perché nella possibilità, diciamo, di questa progressiva riappropriazione degli spazi di libertà, c'è una grande esplorazione di una dimensione umana che il carcere ha completamente frantumato, e questo passa sia per una complessità di interazioni umane, che era l'assemblea che decideva i passaggi progressivi, e in questo Nicola ha centrato un punto che forse nei percorsi attuali spesso manca, ma probabilmente il DDL sicurezza può aprire a nuovi spazi ed orizzonti, che è quella dell'autodeterminazione del percorso stesso. Cioè è un'assemblea che decide e che addirittura desta l'attenzione degli apparati ministeriali, perché quando invece è calata dall'alto la dimensione della riappropriazione di libertà attraverso quei percorsi che costruiscono quella dimensione sovrastrutturale, diciamo, della filantropia carceraria, dell'economia della forca, non riesce ad avere lo stesso impatto dirompente che invece il percorso di Beppe e dei compagni che hanno fatto a Bellizzirpino, e delle compagne e degli altri compagni che li hanno accompagnati fuori, invece ha avuto, fino a destare l'attenzione appunto degli apparati, perché il responsabile che aveva in mano la concezione e l'interpretazione di questo percorso gli è andato a dire a caratteri cubitali, e questo, diciamo, è rinvenibile anche dalle registrazioni che sono tuttora ritrovabili su internet, su Radio Radicale, a dire: guardate che voi fate paura proprio perché siete autodeterminati in questo percorso, quindi appena ci saranno l'occasione di buttarvi fuori dal carcere ve ne dovete andare. Perché? Perché il carcere deve far soffrire, deve far spaventare, che è quella funzione principale che prima Raffaele diceva, con l'elencazione anche di tutte le questioni che hanno attraversato, diciamo, la telefonata che abbiamo fatto con Luigi. Ma in realtà il libro di Beppe non è un libro che butta giù per terra, non è così, perché è un percorso che, con una grandissima rilettura che non era dovuta, e questo, diciamo, è una genialità, perché alcuni di noi, quando subiscono delle enormi fratture, non è detto che noi da quelle fratture dobbiamo per forza andare oltre, possiamo anche decidere di restare, e dopo 20 anni di detenzione è difficile rimmaginarsi, non è un atto dovuto, non è un atto richiesto, è troppo complesso. Gramsci diceva che bastavano 3 anni per piegare le persone. Dopo 20 anni di detenzione e di carceri speciali e di isolamento, non è dovuto uscire fuori da quella roba lì. Loro ci riescono insieme, ci riescono con una grandissima rilettura di loro stessi e dei rapporti di forza presenti, dopo un'esperienza che l'aveva segnati, perché loro la guerra l'avevano combattuta e potevano rimanere reduci per sempre, avrebbero avuto il diritto e tutte le medaglie all'esterno, ma invece no. Reinterpretano loro stessi, ritornano all'analisi dei rapporti di forza, ricostruiscono un'assemblea. La ricostruiscono in maniera dura, è un libro stretto ma è complesso ed è rigido, molto duro in alcuni punti, perché il passaggio sulla dissociazione è durissimo, perché Beppe è chiaro: noi abbiamo costretto i volontari a scindere i percorsi. Chi si era dissociato aveva un tipo di percorso e un tipo di colloquio, chi non si era dissociato aveva un altro tipo di percorso. Perché? Perché la loro era una risposta politica a quello. Sapevano che nella legge della dissociazione si creava una tecnica di potere che espropriava la persona dalla storia, e la storia era una componente strutturale della persona, come la mano, il braccio e la gamba. Rinunciare a quella storia significava rinunciare, in maniera effimera perché era impossibile rinunciarci materialmente, ad una parte del loro percorso. Ecco perché nella loro riscrittura del presente, che era una riscrittura contraddittoria, come sono contraddittorie le comunità, con una possibilità di attraversare delle enormi contraddizioni, perché quel gruppo politico si è seduto a dei tavoli dove magari 10 anni prima era impossibile, con rapporti di forza diversa, sedersi, hanno invece costruito una dimensione autonoma di liberazione da quell'ingranaggio mortifero che è il carcere, che produce morte. E perché è un libro coraggioso? Perché innanzitutto questa storia non è descritta in maniera, diciamo, avulsa dalla propria persona, perché è Beppe e lo dice subito. E quindi là dentro, dentro quelle contraddizioni, non c'è una esternalizzazione di quella roba, non è un ingranaggio esterno, è proprio la storia di Beppe in carne ed ossa, che sta lì dentro quelle assemblee, che produce dibattito. E ci sono anche dei compagni che è difficile delle volte averci a che fare. C'è tutto questo fino alla fase finale, fino addirittura quando il gruppo è costretto, tra virgolette, con il premio e la finalità della vita che sta per venire con la libertà, a riprodursi, tra virgolette, e quindi a moltiplicarsi e a prendere ognuno la propria strada. C'è un altro passaggio molto importante, secondo me, del libro di Beppe che mi ha colpito e che rientra attualmente nella declinazione delle retoriche sulla rieducazione, che è il mutualismo, perché loro all'interno di quell'assemblea capiscono che in maniera funzionale la possibilità di partecipare a dei progetti di mutualismo internazionale attraverso delle comunità legate in qualche modo a quel percorso può essere funzionale alla loro reintroduzione in libertà. Ma non lo fanno per filantropia, lo fanno perché è una moneta di scambio tra ultimi. Io so che con quel mio lavoro cooperativo posso mettere un budget da parte che può dare un piatto di pasta a dei ragazzi in Sud America, e so che questa attività a me e a noi dà la possibilità di uscire fuori. Questa enorme caratterizzazione politica dei percorsi di mutualismo rendono ancora più complesso quel percorso politico, e che, diciamo, a mio parere apre un'enorme breccia sulle riflessioni che si fanno sul mondo carcerario e sugli attuali, diciamo, rapporti di forza. È chiaro che c'è un'enorme difficoltà adesso, e questo, diciamo, è il lato, tra virgolette, che la storia di Beppe ci insegna a noi, ma ci insegna anche nella misura in cui possiamo percepire una difficoltà nell'oggi. Il carcere di oggi è un carcere molto molto molto disgregato all'interno, dove la detenzione comune è frammentata, dove la dimensione, diciamo, collettiva della soluzione dei problemi ad un livello, diciamo, più alto della sopravvivenza, perché in carcere la dimensione collettiva si instaura quando c'è un meccanismo di sopravvivenza, ma nell'elaborazione, diciamo, maggiore, almeno nei reparti dei comuni attualmente, è molto complicata, è difficile. E il risultato di questa macchina che nel suo bilancio ufficioso ci restituisce è chiaro, cioè, nel senso, si muore, perché quello che dice Beppe alla fine del libro, il risultato principale che quella forma di contenimento che l'istituzione carceraria e che sviluppa all'interno quelle tecniche di potere è un riflesso dell'esterno, cioè la disgregazione dei legami. In carcere, se io ho delle risorse anche sul piano affettivo, ma la macchina fa di tutto per riuscire a reciderle, riesco a sopravvivere. Ma quando aspetto una risposta dal magistrato di sorveglianza, un educatore che non riesco a vedere, e ho un problema, e forse magari la mia persona si inizia a frantumare, perché dopo un po' si frantuma, dopo un po' ci frantumiamo tutti, forse probabilmente la morte diventa l'unica soluzione a quello stato comatoso. Però, ripeto, al di là di questa critica strutturale, io penso che invece il libro di Beppe mi ha dato un'enorme forza, anche perché ci sono dei passaggi estremamente teneri, come il rapporto con il bosco, che dà una dimensione chiaramente di restituzione umana e di rapporto con la natura, che una specie di macchina di cemento ipertrofica ti stacca completamente. Ma c'è un elemento, secondo me, politico che possiamo, a partire dal libro di Beppe, condividere. Ogni contenitore ha un limite fisico. Loro hanno raggiunto, cioè i contenitori attuali hanno raggiunto il limite fisico. Con questo DDL stanno cercando di recuperare un controllo interno che chiaramente in alcuni istituti, forse in molti, soprattutto quelli che sono, diciamo, destinati alla reclusione dei comuni, hanno perso. E stanno perdendo anche dal punto di vista amministrativo, perché è proprio difficile governare la macchina con quegli ingressi. Il direttore di Poggio Reale, in una delle ultime visite, ci ha detto, se fuori dai denti, che gli ingressi di Poggio Reale sono di circa 100 detenuti ogni 10 giorni. Quindi chiaramente noi stiamo parlando di una macchina che fagocita persone. che diventa difficile riuscirle a gestire proprio da un punto di vista fisico. È chiaro che questo limite, come tutti i contenitori, ha raggiunto il suo punto di rottura. E quindi fuori c'è adesso solamente qualcosa che viene lasciato a noi, a tutti noi, perché il carcere è qualcosa che, diciamo, parla della nostra libertà e della nostra capacità di interazione umana e negli spazi. Forse è il tempo di immaginare, cioè di immaginare e di costruire. E su questo, Sensibili alle Foglie, con il lavoro di Renato, forse è uno degli elementi che personalmente mi ha dato una delle cose più belle. Quando Renato, in Magnifiche Sorti e Progressive, nel documentario, lui dice una cosa bellissima, dice: io non avrei mai immaginato di assaltare la Sinara e di mettere a ferro e fuoco la sede dei colloqui della Sinara. Però è successo. È successo perché il possibile è molto più ampio del probabile. Quindi tutto ciò che può accadere è qualcosa che non è proprio al di fuori della dimensione del calcolo, e che forse è il caso adesso, proprio adesso, che loro stanno riscrivendo i rapporti tra, lo vogliamo dire in senso giuridico, tra cittadino e autorità, tra diritto di resistenza e autorità, in una maniera molto più esplicita rispetto, diciamo, alle retoriche precedenti. Forse è un momento non di crisi e di sofferenza, ma invece è un momento di immaginazione di un percorso di lotta e di progressiva appropriazione di libertà e di ricostruzione di quello che forse è l'elemento principale che ci permette di sopravvivere individualmente e di immaginare un mondo completamente diverso da questa merda che purtroppo attraversiamo ogni giorno, che invece è una costruzione di una comunità politica. E il libro di Beppe questo lo restituisce in una maniera incredibile, e per questo lo ringrazio e vi ringrazio, e gli passo la parola. Dario. Ok. Va bene. Io vi ringrazio tutti per essere qui presenti. E vorrei introdurre un po' questi spunti di riflessione che vi consegno con la conclusione di un contributo che ha scritto per la presentazione del medesimo libro sabato scorso a Tufo, Cecco Bellosi, che era uno dei relatori e che all'ultimo momento è stato precettato per andare fare questo viaggio che lui ha già fatto una volta in Iraq, per vedere un po' questa organizzazione di questa comunità dei curdi. Ci è andato una volta, ha corso gravi rischi, ora ci è ritornato di nuovo e quindi non è potuto venire a Tufo e mi ha mandato un paio di paginette scritte. Queste paginette si concludevano con una conclusione sua. Diceva: andare in carcere significa, quando si entra, provare una cosa drammatica, una recisione proprio della vita, improvvisa, sembra una cosa assurda, inconcepibile. Dice: quando si lascia il carcere invece si prova un dolore, e il dolore, lui dice, è quello: sì, io esco ma lascio lì tanti compagni che ho conosciuto e che continueranno il loro percorso di dolore, di sofferenza, insomma. Quindi entrare è un dramma, uscire è un dolore. E lui conclude, dice: per fortuna Beppe il carcere non l'ha mai lasciato. E così è. Ecco, a partire da questo io così vi dico: sono 50 anni, ha detto Nicola, sono più di 50 anni ormai che combatto col carcere. Per 20 anni l'ho abitato, quindi ho visto il lato di là. E quelli restanti, ancora oggi io vado in carcere come volontario. Sapete, a volte mi trovo a dire che il rapporto che le persone recluse instaurano con l'istituzione o con chi sta loro di fronte, un rapporto di dominio totale ed incontrollato. Allora molti mi obiettano dice no, non è vero, dice perché c'è il magistrato di sorveglianza, c'è il garante, ci sono i volontari, ci sono gli insegnanti, dice, una serie di figure non istituzionali che in qualche modo esercitano il controllo. Il che in parte è vero, ma in parte è una bugia, perché a differenza di chi lavora e una giornata è quella di 6, 7, 8 ore, quella dei detenuti è una giornata di 24 ore. E sapete che c'è in carcere, si entra, anche i parlamentari, insomma, ci entrano, ma ci entrano dalle 9 del mattino e fino alle 4 di pomeriggio. Dalle 4 di pomeriggio e fino alle 9 dell'indomani è un tabù, è un buco nero, che io però ho la fortuna, la chiamo così, la disgrazia in realtà, di sapere esattamente invece cosa succede dalle 4 del pomeriggio e fino alle 9 dell'indomani, perché è lì che si consuma. Se voi entrate in un carcere con una delegazione, con quelli che hanno diritto di fare le ispezioni, voi vedete camminare i detenuti dentro il carcere, incontrarsi con le guardie, sembra quasi un rapporto cordialissimo. Dice, ah, che bello, qui persino le guardie sono persone democratiche, civili. C'era... Ma queste persone non vedono qual è il rapporto che si consuma tra il detenuto e questo apparato militare che è nascosto dalle mura. Voglio dire, dietro le mura si nasconde sempre qualcosa di obbrobrioso, che io ho definito per il carcere, c'è anche nel libro, il luogo dell'indecenza. Io non trovo un aggettivo diverso, voglio dire, che possa in qualche modo riassumere il luogo del carcere. Bene, ora io però vorrei parlare un attimo di libertà, perché finisce sempre che poi si parla di carcere invece, no? E con un'ultima considerazione sul carcere, sapete, alcuni si accontentano dei dati tecnici, quello ha fatto un reato, perciò è stato processato e condannato, va in galera. Sembra un dato scontato, no? In realtà non si vede la storia di quella persona, come è arrivato a fare quello che ha fatto, perché, in che modo. No, questo non riguarda, tant'è che si dice... Ma voi lo trovate un professore che si definisce ex studente? No, non è possibile. Cioè, eppure per i detenuti, vuol dire, c'è questa definizione, come se non fossero più persone. Sono detenuti, non persone. E in realtà sono non persone veramente, cioè, solo che passa dentro la mente comune, dentro la retorica attorno al carcere, alla detenzione, passa questa idea che lui deve essere definito detenuto. E questa è omnicomprensiva, questa definizione. In realtà nessuno vi dice che è un padre detenuto, che è un figlio detenuto, che è un marito detenuto, che è una moglie detenuta, che è un genitore detenuto. Non vi parlano dell'umanità della persona. Già vedete, nella definizione c'è negazione dell'umanità, già nella definizione stessa. Poi sapete, ho bisticciato e mi fermo qui col carcere, perché voglio parlare un po' di libertà invece. C'ho degli amici che organizzano anche questi incontri così, e un'amica in modo particolare che ha ospitato anche me ad Alba, si occupa di teatro, e leggo un giorno sulla rassegna stampa, voglio dire, che lei mette su un convegno e dice: per un carcere più umano. Mi sono incazzato come una iena, abbiamo rotto pure l'amicizia, perché ho detto: se tu dici questo, supponi che il carcere è già umano, che bisogna che diventi un po' più umano, perché umano è già. No, il carcere è il luogo della disumanità totale, non c'è giustificazione proprio, vuol dire, c'è una disumanizzazione totale. C'era, guarda, non ve lo dico io, dicevo, boh, tu sei incazzato perché sei stato in carcere. No, io ho avuto consuetudine con uno degli scienziati dei sistemi penitenziari al mondo, Massimo Pavarini. Beh, per darvi un'idea di chi era questo, è morto alcuni anni fa con una brutta malattia, dovete sapere che la prima facoltà di diritto penitenziario l'hanno costruita per lui. Non è che c'era e ci hanno messo lui, no, l'hanno costruita per lui. È un massimo esperto dei sistemi penitenziari nel mondo, me ne ha raccontate di tutti i colori. Bene, sapete cosa diceva Massimo Pavarini del carcere? Volete un carcere umano? Bene, dovete mettere in moto le ruspe. O buttate giù i muri o l'umanità è impossibile, perché quello che succede di notte dentro le carceri nessuno lo vede. Ora, volevo dirvi due parole sulla libertà, perché di carcere ne abbiamo fin sopra i capelli. Il carcere è il seme domestico della guerra, cioè noi abbiamo una guerra sociale tra i buoni e i cattivi, i delinquenti e gli incensurati. Cioè, vai a vedere che poi sotto questo maglio qui ricade solo il 10% degli autori di reato, ossia 1 su 10 e 9 la fanno franca, per cui i buoni e i cattivi è una bugia che mediante l'astrazione si arriva a fare, ma è una bugia, insomma, per cui queste dicotomie tra giusto e sbagliato, bianco o nero, allora in realtà questa è una comodità, anche una necessità del pensiero, ma nella realtà le cose non stanno così, non sono così separabili il bene e il male, il giorno e la notte, il giusto e sbagliato, non sono così separabili se non solo nell'idea. Bene, parlando di questo progetto di liberazione a Tufo, lì nel libro, il libro è dedicato a due figure strategiche di quel progetto, che sono un sindaco comunista nel comune di Tufo e la responsabile valdese di un villaggio sorto a Monteforte Irpino subito dopo il terremoto. Perché vi parlo di queste due figure strategiche? Perché uscendo dal carcere c'è bisogno di un luogo dove andare ad abitare e c'è bisogno di un lavoro per procacciarsi la vita. Sono due componenti essenziali, cioè non si può prescindere da questo. E questa Toti Rochat, che è morta l'anno scorso, grande amica mia, io andavo con mia moglie a trovarla tutti gli anni, ci ospitava nella sua casa nel bosco a Torre Pellice ed è venuta meno l'anno scorso, appunto, quindi una grande perdita per me. Lei capì questa questione, intercettò questa necessità per le persone recluse che in qualche modo si organizzano per uscire, per prendere le distanze dal carcere. E capì che c'era bisogno di andare in un luogo che avesse un tetto. E lei aveva queste casette costruite per i terremotati del terremoto del 1980 in Irpinia, però ormai i terremotati avevano trovato anche altre strade, per cui queste casette, in qualche modo, casette di legno, bellissime, cioè una delle più belle case che io ho abitato, tutte in legno, rialzate da terra, costruite dai tedeschi, per darvi un'idea, insomma. E cominciò a darci qualcuna, la prima che ci diede era una casetta dedicata ai parenti che venivano per fare i colloqui ai detenuti, magari venivano dal nord, si trovavano ad Avellino e dovevano andare in albergo, però era gente che insomma economicamente non poteva affrontare delle spese, quindi lei mise a disposizione una casetta per i familiari quando venivano a fare i colloqui. Non solo, ma quella casetta è rimasta a disposizione per quelli che andavano in permesso e non avevano dove andare, magari non potevano affrontare un viaggio per raggiungere la famiglia al nord, che era una perdita di tempo e un costo anche economico. Piano piano le cose sono state ulteriormente estese, per cui alcune di queste casette sono state assegnate ai primi nuclei familiari di questo gruppo che ha costruito questo percorso di liberazione. Ha costruito questo progetto, perché poi il percorso di liberazione nel libro voi non trovate la parola solidarietà, perché per due motivi: perché la solidarietà ormai è una parola abusata e non dice più niente, In realtà c'è della gente che parla di solidarietà, non sa nemmeno che cosa sia, insomma, no? Cioè, ma è sempre l'altro motivo, è che la solidarietà è sempre a senso unico. Tu hai bisogno, io sono solidale con te, cioè, alla rovescia mai. Invece lì si è trattato di un processo di liberazione, come si può dire, di mutuo sostegno. Cioè, nel senso che sì sì, noi avevamo un gruppetto di detenuti, avevamo elaborato un po' questa ipotesi progettuale, ma a metterla in atto poi, a sostenerla, a realizzarla compiutamente, sono stati i volontari, ma le persone di quel territorio, ma poi c'era delle persone che venivano da tutte le parti d'Italia a dare il loro contributo per questo processo di liberazione, e non venivano a portare l'obolo a povero detenutello, cioè, e poi la liberazione di 5-6 detenuti, sapete, alla fine poi è ben poca cosa, insomma, lì la questione, quel progetto lì è molto più grossa, voglio dire, perché le persone che contribuivano, le persone che hanno sostenuto quel percorso, in realtà tutte avevano qualcosa da cui liberarsi, e lì, e questo è avvenuto per moto spontaneo, voglio dire, e anche perché lì hanno scoperto che non c'era un centro di potere, non c'era un responsabile, non c'era un segretario, no? Non c'era neanche una forma organizzata, eravamo una comunità che aveva l'obiettivo di prendere le distanze dal carcere, il nostro interesse più immediato era quello, ma in questo percorso poi fuori dal carcere riacquisita la nostra dimensione umana, cominciò a nascere anche dell'altro, cominciarono le relazioni umane, cominciarono a nascere i bambini, cominciò, voglio dire, un processo di liberazione inteso nel senso più ampio possibile, e voglio dire, anche gli abitanti di quel territorio, ma alcuni volontari che venivano, vi dico, un frate francescano che si parte da Genova, viene a Tufo, in culo a Dio, e viene lì a fare la campagna per la raccolta del fieno per i cavalli, il frate francescano, oppure il prete di Bisceglie, lo stesso che viene lì dal Genova, oppure il bancario di Roma che viene a Tufo con un furgone carico di masserizie e salumi e Gesù Cristo, che viene lì con un furgone carico raccolto come gli riusciva, voglio dire, no? Cioè, ma non veniva lì per dire io sono generoso, io consegno a voi questa cosa perché sono generoso, perché sono filantropo, no, lui veniva lì perché aveva qualcosa dentro di sé che lo induceva a contribuire a qualcosa che aveva un fuoco preciso, non era una teoria complicata. Quando si parla di libertà, voglio dire, si parla di una cosa che tocca tutti, per cui, e mi fermo perché poi vorrei discutere un po' con voi, insomma, le vostre curiosità, a dire il vero, chi realizza quel progetto non siamo noi. Noi abbiamo avuto l'accortezza di non aggregare, di non creare un grumo di potere. Voi vedete, i partiti raccolgono i voti, ma quei voti si condensano poi, diventano un grumo di potere in mano al segretario del partito. Merda secca. Cioè, ecco, voglio dire, lì non si è prodotto in modo spontaneo questa cosa qui. Non c'era qualcuno che voleva aggregare del potere e veniva percepito da tutti in modo orizzontale questa spinta alla liberazione, perché ciascuno, venendo a Tufo, trovava un attimo di respiro ai suoi problemi che si portava dentro, magari qualche volta senza confessarli a nessuno. E lì quel gesto, quella passeggiata, quel viaggio per arrivare a Tufo, in qualche modo lo aiutava a vivere meglio, così come per converso poi aiutava noi in questo percorso di liberazione dal carcere. Allora sapete che c'è, che noi ci aspettiamo sempre i cambiamenti dall'alto, ci aspettiamo che il sindaco, il ministro, il governo cambiano le cose. Non è vero, cioè, i loro privilegi sono tali e tanti che loro vogliono lo status quo. Vuol dire tutto resti com'è, perché io ho un privilegio e lo difendo a tutti i costi, nessun cambiamento. Invece in quel caso lì il sindaco ha preso atto, il sindaco ha fatto una delibera, il comune di Tufo aderì a quell'associazione nostra come socio. Vuol dire, ma era una ratifica che l'istituzione faceva a fronte però di un portato collettivo e sociale straordinariamente esplicito. Dice, noi vogliamo liberarci ciascuno a modo suo da qualcosa. No? Cioè, e tra gli altri, quelli più, voglio dire, evidenti, più afferrabili da tutto, era il tentativo di liberazione dal carcere da parte di quel gruppetto di persone detenute che avevano messo in piedi una comunità che in qualche modo cercava di perseguire l'allontanamento dal carcere il più possibile. E quindi quando poi si è raggiunto l'obiettivo, lo scopo di questa comunità, che non era una comunità per scelta, non è che avessimo scelto di fondare una comunità umana, no, era una comunità di necessità, perché sapevamo perfettamente quello che io vedo tutti i giorni nelle carceri, ma già sapevo da allora, che da solo, di fronte a un potere spropositato, puoi solo subire. La dimensione collettiva è quella che apre qualche speranza, e parliamo però sempre di un collettivo dal basso che propone e spinge verso la propria liberazione da un potere che diventa sempre più insopportabile e che oggi noi possiamo dire, dobbiamo dirlo con serenità, ci ha già portati per l'orecchio dentro una guerra spaventosa. Noi ce l'abbiamo a casa e non la vediamo nemmeno, cioè. Eppure i prezzi di questa guerra qui, che allude a qualcosa di straordinariamente tragico per la collettività, parlo dell'Italia ma anche dell'Europa, abbiamo la terza guerra mondiale che si affaccia, e le spese maggiori le faremo noi. Ecco, vedete, il carcere ben rappresenta questa cosa dentro la quale ci stanno tirando per le orecchie senza dirci nulla. Senza dirci nulla, noi ci immaginiamo che l'Ucraina è là e la Palestina è lì. Ce l'abbiamo qui, ce l'abbiamo in casa. Noi ogni giorno tiriamo fuori i soldi per finanziare quelle guerre lì. E lo fanno di prepotenza, voglio dire, perché noi non vorremmo farlo. La gran parte delle persone non vorrebbe alimentare quelle guerre lì. Eppure ci tirano fuori gli spiccioli dalle tasche. Bene, io mi fermo qui. Naturalmente questa cosa qui avrà acceso sicuramente delle curiosità, per cui io mi aspetto che voi qualche curiosità vi sia sorta, voglio dire, qualche, per cui vale la pena di discuterne un po', insomma, questo è l'obiettivo. No, guarda, siccome ha aggregato attorno una grande partecipazione, a un certo punto le istituzioni, e nel caso specifico ti parlo del sindaco, che con intelligenza e straordinaria sensibilità deve prendere atto che le persone che lui dice di rappresentare vogliono delle cose, prende atto e quindi si adegua. Non è l'istituzione che crea il cambiamento, ma e il cambiamento che obbliga l'istituzione a modificare il suo status, insomma, quindi la sua partecipazione. No, no, l'avevamo organizzata da dentro, tant'è che il processo di liberazione partiva con un progettino di lavoro autodeterminato. Nell'ordinamento penitenziario è previsto il lavoro autogestito e noi avevamo chiesto di fare questo, ma non un lavoro, sapete, c'è un carcere, Sant'Angelo dei Lombardi, provincia di Avellino, forse è l'unico carcere dei dintorni dove tutti i detenuti che sono dentro lavorano, tutti. E se qualcuno si rifiuta di lavorare lo mandano via e finisce a Poggio Reale, a Secondigliano, insomma. Ma che me ne frega a me di quel lavoro? Ma quando il lavoro punta alla remunerazione, se il lavoro si traduce solo in soldi, ma che me ne frega a me? Cioè, è una cosa assolutamente irrilevante, lascia tutto com'è, anzi rafforza l'istituzione. Viceversa, il lavoro all'interno con una ragione sociale collegata, e in questo caso era lavorare per liberarsi, ma non in modo umma umma, in modo dichiarato, pubblico. Noi intanto lavoriamo, produciamo degli oggetti e questi oggetti poi hanno un mercato e naturalmente noi quei soldi lì li recuperiamo solo nella misura in cui dobbiamo ripristinare le materie prime che abbiamo consumato, il resto va ad altre situazioni di necessità e non perché siamo filantropi, è scritto chiaramente nel libro, perché se noi con un piatto di minestra, come rilevava Luigi, sottraiamo un ragazzo brasiliano ai fucili a pompa dei guardiani davanti ad ogni negozio e gli sparano per ogni piccolissimo furto, e se noi per un giorno gli diamo un piatto di minestra, per un giorno quello non è costretto a rubare, quindi guadagna un giorno di libertà. Bene, quel giorno noi lo vogliamo anche per noi, perché anche, e questa era una cosa dichiarata, però non era una cosa umma umma, per cui la ragione del nostro lavoro all'interno del carcere non aveva l'obiettivo di fare i soldi, ce ne fregava fino a Pasqua, voglio dire, no? Ma era quello di guadagnare quote di liberazione, ossia mettere in discussione il muro di cinta del carcere, in qualche misura. E poi ci riuscimmo effettivamente. E quindi partimmo dall'interno, poi dopo un certo periodo che abbiamo fatto questa cosa qui, quando il direttore generale delle carceri, facemmo un convegno dentro il carcere, in due giorni vennero 2000 persone a questo convegno per illustrare questo progetto di lavoro autogestito dentro il carcere. Ebbene, il giorno dopo, mentre il sindaco comunista di Tufo, che ha partecipato a quel convegno, ha scoperto il carcere e ha scoperto le ragioni del carcere e ha detto: io qui ho qualcosa da fare, vuol dire, altri invece, come i dirigenti del Ministero della Giustizia, si spaventarono. Perché chi aveva fatto meno galera di noi aveva fatto 15 anni, quindi ci credevano seppelliti. E il giorno dopo il direttore generale delle carceri si precipitò lì e disse: voi avete il torto imperdonabile, che nessuno vi perdonerà mai, disse, di aver parlato il linguaggio della libertà dentro la prigione. Dice, e allora, in verità, dice, la prigione deve fare paura, non si può parlare di liberazione dalla prigione. Dice, per cui, come citava Luigi, disse: ora alla spicciolata voi uscirete, via via che si danno le condizioni tecniche, ma nessun detenuto sarà più autorizzato a partecipare a questo percorso, a questa associazione. Sai, le persone detenute acchiappano subito, voglio dire, l'indicazione che può ridurre anche in piccolissima misura la sua prigione. Per cui quella era davvero una finestra che si affacciava verso il mondo, no? Mediante il lavoro, ma con grande anche consapevolezza, voglio dire, che il lavoro non aveva la finalità di fare i soldi, capito? Non era questo l'obiettivo. Il lavoro era uno strumento per avvicinarsi e superare il muro di cinta, talché poi quando uscimmo nel primo periodo, uscimmo con una misura amministrativa. Per chi non lo sa, la misura amministrativa, l'articolo 21, l'ammissione al lavoro all'esterno del carcere, è un provvedimento amministrativo concesso dal direttore del carcere, che in ogni momento può rivederlo, senza neanche dare una spiegazione. Viceversa, la semilibertà, che apparentemente è la stessa cosa, in entrambi i casi si esce al mattino e si torna dentro la sera e si pernotta in carcere, però con la semilibertà c'è, come dire, c'è una sentenza che decide questo, e una sentenza ti prescrive, tu dici, tu esci al mattino, stai fuori il giorno, torni dentro la sera, devi rispettare determinati orari, i confini geografici del comune, eccetera eccetera, no? Cioè, per cui quella è una sentenza e nessuno può toccarla a meno che tu non trasgredisci quei limiti che ti hanno che sono scritti dentro la sentenza, insomma. E noi, quando guadagniamo appunto questa quota di liberazione con la libertà giurisdizionalizzata, era un passo verso ulteriore verso la libertà, e quindi non c'era più la necessità di vivere in gruppo, quindi di mantenere in piedi questa comunità che avevamo fondato, e quindi ciascuno prese la sua strada, insomma, fino ad arrivare poi tutti alla liberazione. Voci, voci. Innanzitutto grazie per il tuo racconto e la tua esperienza che ci ha portato oggi. Il tuo racconto, che appunto parte da una visione interna al carcere, di determinazione collettiva per trovare un'uscita da questa dimensione disumanizzante del carcere. La domanda che volevo fare, vista questa tua lunga esperienza, sia appunto da interna che da lontano, la società civile invece che vive esternamente a questo muro di cinta, in che modo Infatti la gente non lo sa che può entrare dentro a vedere, perché il volontariato questo è, andare a vedere, in qualche modo esercitare una forma di controllo. Vuol dire, questa è una possibilità data a tutti, magari maggiormente data in quanto uno è legato a un gruppo già aggregato nella società, una cooperativa, un'associazione. Questo è una credenziale, insomma, per cui è più facile raggiungere questo, ma chiedere di invadere il carcere, chiedere di andare dentro a vedere, non per farlo funzionare bene, che sarebbe uno schifo proprio, insomma, no, io non vado in carcere per farlo funzionare bene, cerco di sabotarlo in tutti i modi possibili, ma non in modo nascosto, cioè è esplicito, io glielo dico. In carcere io ci vado per tentare tutte le strade, utilizzando la mia esperienza, ma anche quello che le varie regole consentono, per trovare uno degli infiniti sentieri possibili, voglio dire, per ridurre di un giorno solo la galera di un detenuto, con la consapevolezza che ogni giorno di galera per una persona è una tragedia. Ecco, con questa consapevolezza, andare dentro è come finire in una tagliola, è facilissimo, e poi per uscirne però è estremamente problematico. Ecco, andare dentro significa trovare un po' le strade, insieme a loro, però non portando il verbo, non porti proprio nulla, vuol dire, parlando con loro, però siccome questa esigenza di liberazione risiede in tutte le persone detenute, benissimo, lavorando insieme. Ora è molto più difficile di prima, perché prima le forme di aggregazione, i legami sociali c'erano fuori e c'erano anche dentro, oggi non ci sono fuori e a maggior ragione non ci sono dentro, per cui questa è una mezza tragedia, cioè. E però c'è sempre qualcosa che si può fare, no? La cosa più assurda è quella di dire non c'è niente da fare, No, no, non è mai vera questa cosa. C'è sempre qualcosa che noi, solo come esseri umani, come persone, possiamo sempre fare. Sapete, percepire, c'era qualcuno che diceva, percepire il proprio dolore significa essere vivi. Percepire il lavoro degli altri significa essere umani, che è una cosa diversa. È tutto chiaro? Ci siamo? Questa cosa di per salvarci, diciamo, no? Perché l'intelligenza artificiale è velocissima nel ragionamento, molto più veloce dell'uomo, però non ha l'intuizione. Quindi noi è giusto che coltiviamo questi aspetti per poterci salvare, insomma, in questa fase di post-umanesimo. Questo solo volevo dire. Vabbè. Silvana, però. O noi ci attacchiamo a quei frammenti di umanità dei quali siamo portatori, o se ci arrendiamo è persa la partita. Cioè, sai, poi l'intelligenza artificiale, cioè, in realtà sono idee prodotte dagli altri, qualcuno se ne appropria, le modifica un po', vuol dire le brevetta solo per sottrarsi al copyright, voglio dire, le idee già espresse diventano intelligenza artificiale, ma in realtà sono idee umanamente prodotte. Il fatto che qualcuno le metta insieme, voglio dire, non è che deve convincerci che la nostra umanità non vale più niente. È vero il contrario, insomma, noi dobbiamo tentare o c'è vita o non c'è vita, o c'è determinazione a lottare per vivere o c'è resa, ci dobbiamo arrendere. Io dico invece vale la pena di combattere, ma di combattere fino all'ultimo centesimo. È tutto chiaro, vi accenno una cosa che mi viene in mente in questo momento. Luigi citava questo documentario che ha realizzato Renato Curcio, delle sorti nuove, progressive, insomma, questo video girato nel penitenziario di Santo Stefano al largo di Ventotene. E lui in realtà cosa dice? Dice, ma insomma, il carcere è fatto per controllare i corpi. Sapete, io credo che il carcere oggi davvero sia, a ragion veduta però, sia un reperto archeologico che sta in piedi solo per cialtroneria, solo per consuetudine, solo per inerzia, cioè, ma non è più in grado di assolvere nessun compito. Vuol dire, cioè, e costa l'ira di Dio, cioè, ci sono 3 miliardi di euro ogni anno, sono i nostri miliardi di euro, voglio dire, non è che il governo se li inventa, tanto costano le carceri, insomma, mediamente, un po' più, un po' meno, insomma, 3 miliardi di euro. Bene, noi abbiamo uno strumento che ce lo portiamo in tasca tutti, che è questo qui, che non è solo in grado di controllare i corpi, ossia attraverso questo sanno che io mi trovo in questo momento esattamente qui, ma è in grado di controllare quello che io sto dicendo, quindi è in grado di controllare anche come penso. Vuol dire, a fronte di questa tecnologia, a maggior ragione, il carcere non ha più ragione d'esistere, è solo un'imbecillità altamente costosa, mentre perché poi pochi sanno che dentro ci sono oggi 61.000 detenuti, fuori ce n'è 120.000, esattamente il doppio, solo che quelli fuori costano pochissimo, molto poco, sono cifre prossime allo zero, quello dentro per la metà delle persone in stato di detenzione costa un mare di soldi, anche da un punto di vista puramente economico, insomma, converrebbe utilizzare la tecnologia in questo senso, ma abbandonare l'idea del carcere, che del resto nella Costituzione non è previsto il carcere. Il carcere è una bestialità, è una bestialità umana, e però nella consuetudine tutti noi lo sosteniamo, anche poi i detti popolari, quello lì ha fatto questo e l'altro, uno meriterebbe la galera, dimenticandosi poi che uno viene punito da un giudice e perciò va in galera, e noi invece, come è nel senso comune, dice quello va in galera per essere punito, no? È già stato punito e perciò va in galera, quindi dentro non dovrebbe succedergli nulla di quello che succede, perché la punizione l'ha già subita, un giudice gli ha detto tu non devi più andare in giro libero, cioè, e quindi lo rinchiude, è già una punizione questa. Invece nel senso comune, vedete, poi noi produciamo il carcere senza accorgersene, perché giustifichiamo l'idea secondo cui chi va in carcere ci va per essere punito. No, è già stato punito, perciò va in carcere. Siamo arrivati, mi dispiace perché essere così brutale poi toglie la parola alle persone, me ne dispiace molto. Però noi abbiamo qualcosa di molto più brutale che ci sovrasta. La storia del carcere è una storia infame, una storia bestiale, una storia indecente. Cioè, vi dico l'ultima e poi mi acquieto e poi ce ne andiamo magari a mangiare. Cioè, quando sono successi i fatti di Santa Maria Capua Vetere, immagino lo sappiate tutti perché è arrivato sui televisori di tutte le case, vuol dire... Qualche giorno dopo, il Presidente del Consiglio, quel tal Draghi, e la Ministra della Giustizia andarono a fare la passerella a Santa Maria Capua Vetere, e quando uscirono tennero una conferenza stampa per prenderci per il culo la seconda volta, insomma, no? Dissero, però qui c'è un problema di formazione, Gesù. Formazione. Ma la polizia, può mai diventare, la polizia può mai diventare assistenza sociale? La polizia è polizia. Allora quando noi accettiamo l'idea di affidare H24 a un corpo di polizia determinate persone, vuol dire noi dobbiamo sapere qual è il mandato della polizia, che è quello di controllare e di reprimere. E il braccio della violenza è la forza esercitata. Questo è l'organo di polizia. Ma vi sembra una cosa ragionevole, sensata, vagamente giusta affidare a un corpo di polizia 61.000 persone? È una cosa imbecille, è una cosa assurda. Vabbè, insomma, il Presidente del Consiglio e la Ministra hanno detto e questi hanno fatto questo massacro perché non hanno la giusta formazione. Ma voi capite? Non hanno la giusta, ce l'hanno e come? Sono dei professionisti, sono i professionisti della violenza al servizio io non dico dello Stato, perché pure io sono stato al servizio del governo. E per ricordarci qui, infine, per ricordare i 73 morti, la gente che piuttosto che vivere in carcere si appende con un lenzuolo al collo. Cioè, davvero, ma in assoluto silenzio, come se fosse una cosa pacifica. Cioè, vuol dire, ma se voi date uno schiaffo fuori di qua, vi dicono che siete responsabili di un atto di violenza, ma le persone che sono interamente in mano al governo, non allo Stato, al governo, perché chi determina la vita dentro le prigioni è il ministro della giustizia, è l'esecutivo. Ha responsabilità? Ma com'è? Non c'è responsabilità per quei morti. E non è che quelli dicono, ma quelli hanno scelto di suicidarsi. No, cioè, è un suicidio per induzione, nel senso che vengono indotti, è talmente miserabile e infame la vita e il trattamento che ricevono da rinunciare persino a vivere. Ma di questo qualcuno dovrà assumerla la responsabilità o no? E io non parlo dello Stato, che è una cosa vaga, è una cosa fumosa. Dico, ma il ministro della giustizia, noi lo paghiamo. Ma perché non si assume la responsabilità, oltre che il 27 del mese, se l'assumesse di fronte ai 73 cadaveri? Perché alla fine, davvero mi fermo, se un senso ce l'ha a carcere è quello di produrre la morte, è un'istituzione di morte, ammazza le persone, le ammazza tutti i giorni, muoiono per mancanza di cure, muoiono in mille modi, e alla fine, proprio come fosse uno schiaffo in faccia, un colpo di frusta, alla fine si legano un lenzuolo al collo, vi sbattono il loro cadavere in faccia. Ora di questa cosa qui noi dobbiamo prendere atto. Io non mi aspetto che Nordio domani mattina si sveglia e dice: oh, io sono il ministro, non deve più morire nessuno. Ma quando mai? Non gliene frega proprio niente a lui. E a me che frega invece, perché là dentro ci sono le persone. Ci sono le persone che hanno dei vissuti terrificanti. Oggi, guardate, vivere in galera oggi, con i rapporti, con la possibilità di aggregazione che c'è oggi, zero, no? Cioè, davvero è l'inferno dei vivi, è la soglia del cimitero, quello è il carcere, oggi il carcere questo è. Allora noi dobbiamo avere il coraggio a dire al nostro vicino di casa, all'amico, al parente, di dire: guardate, il carcere non è vero che produce giustizia, produce morte, e la produce tutti i giorni. Io vi dico questa storia, che quei morti lì non hanno dei responsabili, mi fa uno schifo tremendo, cioè uno schifo che non posso non dirlo a chiunque incontro, voglio dire, no? Cioè, e dobbiamo sapere che più che da Nordio dipende da me, dipende da noi. Grazie. Tornando al libro, volevo chiedere che tipo di rapporto, se ci sono ancora rapporti, con le persone che hanno fatto questa esperienza nel bosco. Questa è mia moglie. C'era, che tipo di rapporti? C'era, guardate, sabato io ho vissuto una emozione straordinaria, sono venute tutte le persone che 30 anni fa erano con noi, ci siamo ritrovati invecchiati, ma eravamo quelli che abbiamo, come dire, stabilito un legame e andavamo nella stessa direzione, loro avevano qualcosa di cui liberarsi, pure io. Cioè, erano legami, non voglio parlare di solidarietà, perché ho spiegato già perché, però questi legami ci sono veri, e quando si incontrano provocano dei moti, dei flussi, delle emozioni forti, proprio perché siamo ancora esseri umani, insomma. E non è che lo provocano solo a me, ma io li ho visti. Quelli che non vedevo più da 30 anni avevano gli occhi lucidi quando ci siamo incontrati, per cui è un rapporto, non so cosa intenda più di questo con la domanda di quali rapporti ci sono. Cioè, alcuni poi ci siamo smarriti, ciascuno è andato per la sua strada, per cui, però quando ci si incontra ci si riconosce, ci si emoziona, cioè, nel senso che le persone, i legami sociali sono gli specchi che ci dicono chi siamo e come viviamo. Io da solo posso avere mille presunzioni, dire ah, io sono giusto, io sono morale, io sono libero, io da... ma è gratis, non è vero. Cioè, o queste cose io le scopro attraverso chi incontro, attraverso il rapporto, la relazione sociale che ho con gli altri, o se no io sono proprio un disgraziato, uno che divento un paria, vado camminando ma non so nemmeno dove vado, mi sono dimenticato da dove vengo, cioè, ma sono, divento un paria, sono davvero un disumano. O ci sono, c'è questa consapevolezza che i rapporti sociali mi servono per sapere chi sono io, da dove vengo, dove voglio andare, per farmi capire la differenza che c'è tra i bisogni e i desideri, che i bisogni sono schiavitù, i desideri sono scatenamento, voglio dire, desiderio di libertà. Ma quello scatena delle energie spaventose, vuol dire, ci induce a fare delle cose che noi non pensiamo nemmeno. Cioè, gli esseri umani, quando sono umani, hanno delle potenzialità spaventose, non ne sono consapevoli. E solo socialmente, solo nel percorso, quando io scopro attraverso l'altro che è mio amico Salvatore, lo conosco da anni, vuol dire, io so chi sono anch'io, perché me lo rimanda lui, così come io gli rimando a lui chi è lui. Cioè, voglio dire, e in questo senso però poi viene fuori che facciamo un pezzo di strada insieme e vengono fuori queste potenzialità che davvero ci rendono possibile quello che ci sembra impossibile, come diceva Franco Basaglia. Dobbiamo andare a mangiare o c'è ancora qualche curiosità? Salvatore si alza. No, io non puro, mi trattengo, ma mangio piatti e passi. Aspetta, io mi mangio piatti e passi con noi. Dei cavalli, che mi mangio piatti e passi, va bene? Secondo vanno a sinistra. La fila prima della porta. Mangi?